Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer. Bizzarri, incomprensibili, insoliti, rassicuranti, terrificanti, divertenti, licenziosi, infantili, ricorrenti, frammentati. Oggi, amici cari, parliamo di sogni, di questa parte di noi, della nostra vita cerebrale, affettiva ed emotiva, che da sempre, lo sappiamo, suscita grande fascino ed interesse sia in chi li fa, sia in chi vuole studiarle, interpretarle. Ci hanno provato in tanti, poeti, filosofi, medici, psicoanalisti, e ci proviamo anche noi oggi, stamattina. Tra l'altro, che avete sognato? Volete condividerlo con noi sui nostri canali? Noi siamo a vostra disposizione, perché c'è anche un po' di soddisfazione a raccontare i nostri sogni. E di sogni parliamo oggi col professor Roberto Manfredini, che è tornato a trovarci, ci ha accompagnato per tutta l'estate. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma temo di essere più un incubo che un sogno. No, non dica così. Direttore della Clinica Medico Universitaria di Ferrara e autore di Un Tempo per Ogni Cosa. E a proposito di Un Tempo per Ogni Cosa, noi la notte, che lo vogliamo o no, che ce li ricordiamo oppure ce li dimentichiamo, ogni notte noi sogniamo. È vero, il sonno stesso è un mistero. E all'interno del mistero del sonno ci mettiamo il secondo mistero, che è quello del sogno. Perché, come ha detto giustamente lei, se ne è occupato il mondo da sempre, del mondo del sonno e dei sogni. Già nella mitologia greca, infatti, sostanzialmente, da Nyx, la notte, Erebus, le tenebre, fra i tanti figli, due sono molto importanti, sono Hypnos e Thanatos, sono il sonno e la morte, che sono così connessi, perché per tanti anni, per tanti secoli sono stati quasi confusi, cioè in fondo il sogno e il sonno è una morte però con il risveglio. E se uno va a vedere i figli di Hypnos, uno era Morfeo, uno era quindi praticamente il sogno, uno era il terrorizzatore, l'incubo era Phobetor, e poi c'era Phantasos per la creatività, perché durante la notte siamo capaci anche di costruire l'impossibile. È vero, ma professor Manfredini, noi possiamo dire che la fabbrica dei sogni è nel nostro cervello? Sì, sì, assolutamente sì. Il nostro cervello è talmente complesso che, oltre alle mille attività che svolge di notte, quando magari così per lo più si pensa che la notte è un periodo di riposo, sì, è un periodo di riposo per noi, ma il cervello lavora quanto e come più che di giorno, fa altre cose, diciamo, non sta mai fermo, e una di queste è sicuramente il sognare. Il sognare, anche se non lo ricordiamo, perché la maggior parte dei sogni ci passano fuori dalla memoria, noi produciamo sogni continuamente durante le fasi del sonno, e con vari significati, con vari scopi, insomma, ci sono tante idee, tante teorie, insomma, ma è importantissimo anche sognare. E infatti, considerata la grande quantità di tempo che gli si dedica, ho letto circa 1.5 ore, è possibile, professor Manfredini? Sì, sì, un'ora e mezza. Ogni notte? Sicuramente, almeno, ecco. Ecco, sì, almeno? Sì, sì. Ecco, evidentemente devono avere una funzione nella nostra vita affettiva, emotiva, diurna o notturna. Insomma, se ci sono, a qualcosa servono. È sicuro. Ci sono tante teorie, perché naturalmente questo è un mondo che sta diventando un pochino più conosciuto negli ultimi anni, con le possibilità tecnologiche che abbiamo di studiare anche il cervello a riposo, di vedere le aree che si attivano con la tomografia a emissione di positroni, con la PET, con tante altre. Quindi ci sono molte teorie. Da una parte sembra che il sogno sia importantissimo anche per la funzione della memoria, quindi non solo il sonno, ma proprio la parte del sogno. Le informazioni che vengono immagazzinate durante la notte sono intanto quasi quanto quelle che noi immagazziniamo da sveglie, già questo se potrebbe sembrare incredibile, vengono posizionate in certi posti, richiamate per la memoria a lungo termine, si organizzano le emozioni in modo da ridurre l'impatto emotivo di alcune cose che noi abbiamo vissuto per favorire poi la nostra possibilità di affrontarle. Secondo alcuni scienziati il sogno è addirittura una specie di campo di allenamento, quasi fosse uno di quei videogiochi alla PlayStation in cui noi viviamo delle esperienze pericolose durante la notte che potrebbero teoricamente essere anche presenti un domani da svegli, e quindi uno si allena come affrontarle, come uscirne, cosa farne, e poi durante la notte, quando tutta una serie di attività del cervello sono un po' più libere perché non devono presiedere tutto quello che facciamo di giorno, quindi la mente è un po' più libera, alle volte ecco che vengono le soluzioni a problemi apparentemente insormontabili, spunti di creatività, invenzioni, genialità, eccetera. No, e a volte genialità, intuizioni, idee che portano a vincere un Nobel. Sì, sì, c'è tutta una letteratura molto anche simpatica. Eppure io dormo tutte le notti, pensi, professore, non mi è mai capitato di vincere. È vero, vabbè, ma siamo in buona compagnia, anche io non ho ancora vinto niente, e chissà quanti. Però per esempio, ecco, uno dei tanti aneddoti che ci sono sul richiamo dei sogni, Otto Levi nel 1921, un famoso farmacologo tedesco, che aveva avuto l'intuizione che gli stimoli a livello del cervello fossero mediati da mediatore di natura chimica e non elettrica. E durante la notte lui ebbe un sogno in cui c'era un esperimento che avrebbe potuto risolvere questa sua idea e poterla assolutamente metterla in pratica. Si sveglia e prende due fogliettini sul comodino, ma proprio butta giù un pochino di appunti e si riaddormenta. Solo che alla mattina, quando prende quei due fogliettini scarabocchiati, non è capace di leggere neanche la sua calligrafia, ha scritto male, proprio in fretta, magari era un tovagliolino. E quindi passa, come dice lui, la più brutta giornata della sua vita a dire: mannaggia, ho perso l'occasione. E quella lì era l'idea giusta. La notte dopo, destino, si ripresenta lo stesso sogno, e lui questa volta lo immagazzina bene, si sveglia subito, va al laboratorio, lo mette in atto e 15 anni dopo vincerà il premio Nobel. Fantastico, quindi bisogna avere sempre un taccuino sul comodino e scrivere bene, magari uno scrive in stampatello, se no registra un vocale o sveglia la moglie o il marito lì vicino e dice: scusa, ti devo dire questo. Vero, per esempio Federico Fellini, il grande regista, qualche anno fa è stato pubblicato il libro dei sogni di Federico Fellini. Fellini sognava, aveva dei sogni particolarmente intensi, e attratto dalle visioni oniriche di questi suoi sogni la maggior parte delle scene dei suoi famosissimi film. Lui al mattino, quando si svegliava, scriveva tutto quello che si ricordava, naturalmente alle volte ricordava molto, alle volte meno, ma ha tenuto un diario tutte le mattine dei sogni e delle notti per molti anni, ed è il famoso libro dei sogni pubblicato poi naturalmente postumo, che è molto interessante, molto carino. Professore, invece tante volte noi i sogni non ce li ricordiamo. Sono i cosiddetti sogni bianchi, i cosiddetti white dreams, i sogni bianchi, come dire: io penso di aver sognato, ma non so dire niente di più, non mi ricordo assolutamente niente. Che invece non è giusto, come alcune persone che affermano di non sognare, la completa assenza dei sogni. Perché proprio quelle tecnologie che dicevo prima hanno dimostrato che anche le persone che si dichiarano non dreamers, non sognatori, in realtà il loro cervello qualcosa produce sogni che poi uno non li ricordi, l'altro paio di maniche. E quindi voi non disperate, che la notte porta consiglio, e sogniamo tutti, prima o poi riusciremo ad acchiappare quell'idea che chissà ci cambierà la vita. Professore, anche all'Università di Ferrara parlate di sogni, tra poco con una bellissima è un bellissimo appuntamento, sonno e sogni fra scienza e arte. E l'occasione è una seduta dell'Accademia delle Scienze e assieme alla professoressa Cappelletti, Francesca Cappelletti, ordinario di medicina di storia dell'arte della nostra, la medicina che è proprio della testa, di storia dell'arte della nostra università, e recentemente assurta alle cronache per un'importantissima nomina, è diventata pochi giorni fa la direttrice di Galleria Borghese a Roma. Complimentoni. E insieme alla dottoressa De Vincenti, su una del suo staff, affronteremo questo argomento nell'ottica sia di un po' di scienza e sia naturalmente del mondo dell'arte, sperando di non annoiare nessuno. No, ma sarà un sogno, veramente. Potete naturalmente, dovete prenotarvi per seguirlo, ma mettiamo delle indicazioni per i nostri amici sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Comunque è martedì 29 settembre. Professore, buoni sogni. Grazie a voi. E allora chissà, diciamo mai che anche mi vinca un Nobel, io dirò, ecco, noi lo conoscevamo. Ci diamo l'appuntamento al primo grande successo. Buona giornata a tutti e grazie. Grazie, grazie al professor Manfredini, grazie a voi, a Peter Bescape, chissà che cosa ha sognato. Adesso vado a chiederlo. A Laura Vanossi, sorride, quindi deve essere stato un sogno bello. A Laura Vanossi in assistenza in redazione, ci sentiamo dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.